Accanto sarei come un bidone pieno di spazzatura, amorfo lì da solo, tutta la nostra storia non sarebbe duratura. Sto crescendo e mi metto in gioco il grande salto, salto. Sto cambiando e mi metto in gioco il grande salto. Stabilità, prigioniero di una lettera, i miei dischi, la mia identità. A te un appartamento da stabilità e un lavoro come manager ti dà un'identità. E scatta l'entusiasmo, l'applauso collettivo. È solo insieme a te che io mi sento ancora vivo. Mi sento disturbato dalla quotidianità, ma ritorno alle radici, piccole fatalità. Come una mongolfiera mi alimenta la tensione della linea di confine fra amore e confusione. A volte sono instabile, molto stravagante, ma siamo ancora insieme come il caffè latte. Sei come un diamante, la mia centralità, la parte integrante, la mia vivacità, la lucida follia, macchia d'olio che camuffa i miei difetti, tutto il resto è una truffa. Sto crescendo e mi metto in gioco il grande salto.